Smart City, la città intelligente. Buonasera, bentornati a Smart City. Vi invito come ieri sera, perché continuiamo a parlare di paesaggio, ad aprire la pagina di Smart City sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Ci troverete qualche fotografia che può, diciamo, coadiuvare l'ascolto della trasmissione. Di che cosa parliamo? Parliamo di un nuovo approccio alla riqualificazione di aree fortemente degradate. Un approccio che non punta al ripristino delle condizioni iniziali, che a volte è del tutto velleitario e anche poco realistico, per via dei costi o per via anche dell'impossibilità di definire una condizione originale dopo secoli di trasformazione, ma invece si pone come obiettivo quello di trovare una nuova funzione, una nuova destinazione per quello che c'è. Ieri abbiamo parlato di un caso, quello di Ferropolis, in Germania, confine con la Polonia, un'area completamente distrutta dall'estrazione del carbone, in cui le grandi macchine scavatrici, i grandi tralicci, carri ponte di centinaia di metri sono diventati una coreografia invece che un pugno nell'occhio, dove si svolgono concerti e quant'altro. E allora questa sera continuiamo a parlare di questo tema, sempre con Andrea Schipar, che è tornato a trovarci. Buonasera. Buonasera a voi tutti. Allora, Andrea Schipar è architetto paesaggista e però è anche membro in Germania della Commissione per la tutela del paesaggio. Ieri abbiamo parlato di questo caso, quello di Ferropolis. Andreas, questa sera invece parliamo di un caso italiano al quale proprio tu stai lavorando. È proprio questo che dopo tanti anni essere riuscito, attraverso un processo quasi informale, intervenire sulla Valle del Sacco, che è una delle valle più inquinate dell'Italia. Siamo tra Napoli e Roma, in provincia di Frosinone, provincia, no? Roma, Frosinone, Latina, 55 comuni, quasi 700.000 abitanti, c'è un nastro autostradale e le vittime della Cassa di Mezzogiorno, insomma, di una forzata industrializzazione che ha portato, certo, ricchezza, lavoro, ma oggi lascia soprattutto dismissione e una certa disperazione anche certo, sul territorio. Insomma, un sito fortemente industrializzato, un distretto fortemente industrializzato, che adesso però viene progressivamente abbandonato, con una forte industria chimica che quindi, insomma, lascia tracce pesanti nel terreno. Tra l'altro il fiume Sacco periodicamente esonda, ha portato gli inquinanti anche nei campi agricoli, e qui come dire, interviene questo progetto di cui tu sei protagonista. Che cosa farete lì? Sì, lì sul nastro di 50 chilometri, perché di 50 chilometri ne parliamo, abbiamo individuato 10 cellule di riattivazioni, che è un grande parco lineare in termini di produzione. Le aree dismesse non vengono più chiuse in attesa di una propria bonifica, ma potranno essere riattivati in funzione della propria bonifica attraverso la fitodepurazione, dando nuovi posti di lavoro e soprattutto collegando questa parte del fondevalle con l'alta valle, che storicamente e culturalmente è molto apprezzato e oggi spesso è abbandonato. Ecco, parliamo di fitodepurazione, ti fermo un attimo, quindi stiamo parlando di bonificare quei terreni con delle piante che quindi verranno piantate apposta, e che cosa ci si fa con queste piante? Queste piante, inserito anche nel decreto sviluppo del governo, possono essere utilizzate come biomassa. Ok. E questo tema della biomassa attraverso dei mini cluster, utilizzandolo sul territorio, crea lavoro, crea una nuova produttività e soprattutto fa sì che il territorio diventa bonificato in maniera visibile, cioè il processo non è più un processo nascosto, ma un processo aperto al quale ci auguriamo che le scolaresche possano intervenire, possono guardare, possono intervenire gli operatori. Insomma, tu stai dicendo che al posto questo paesaggio diventa un paesaggio anche vissuto, anche questa trasformazione, questa riqualificazione venga vissuta positivamente. Invece di avere dei signori con le tute bianche come a Seveso, abbiamo dei campi probabilmente di delle specie particolari che riescono a catturare gli inquinanti dal terreno, no? Poi non si possono mangiare i prodotti di queste coltivazioni, ma si possono bruciare, ci si possono fare biocombustibili e cose di questo tipo. Energia. Questo giusto per, attraverso 7 linee di azione, il master plan si in un'ottica slow, si esprime, e devo dire, energia rinnovabile, come l'abbiamo detto, ma anche in alcuni parti un'agricoltura sostenibile e soprattutto un rilancio anche di questo effetto della cultura legato al turismo che nei anni passati si è perso quasi completamente. Ma che tipo di turismo ci si aspetta in una valle così compromessa? Ma è un turismo del tutto appassionato, perché non dimentichiamo che ci sono delle testimonianze storiche, archeologiche di primaria importanza. Allora si pensa a un turismo di vicinanza, quello che in tempi di crisi torna ad essere di moda, quel turismo che parte da Roma e va a farsi la giornata nella Valle del Sacco in alta quota. Beh, qualcosa di simile è già avvenuto, vero? Proprio in Germania. Penso che dal punto di vista della industrializzazione sia molto paragonabile con il bacino industriale della Ruhr, che negli anni 80 ha di colpo dovuto chiudere sia le acciaierie che le miniere. Il carbone, sì. E lì si è detto che la vera infrastruttura per il rilancio delle aree industriali dismesse non sono le strade, non sono gli aeroporti, ma è il paesaggio. Allora questa vicinanza con il piano del rilancio della Ruhr, che oggi dopo 20 anni porta in pieno i suoi frutti, porta i suoi bioenergy parks che sono aperti a tutti i cittadini sia per lavoro sia per il tempo libero ma anche per l'attività culturale stessa. Questo è il nostro esempio. Anche nella bonifica c'è dentro una grande prospettiva del futuro. Grazie Andrea Schippa, grazie mille. Prego, prego. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.